imbarazzo nel clan azzurro dopo l'ennesimo show di Antonio Cassano, che con le sue prodezze travolge Siena e fa volare in campionato la Sampdoria. Perfino Al Jazeera si domanda come mai il CT Marcello Lippi non convoca in nazionale il biondo fuoriclasse barese. Ma Lippi non si scompone e pacatamente dà una risposta tecnica. Ehi biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!